Hay una historia, hay un pájaro que canta marucucu. Fermare la guerra e ballare. Lo scrittore basco Joseba Sarionandia, nel Malessere delle parole, annota che da bambini tutti sappiamo giocare alla guerra, ma non abbiamo idea di come si giochi alla pace. Giocare alla pace si impara nell'azione decisa, tenace e irrevocabile stessa del gioco. La pace si ottiene con mezzi diversi. Non c'è un unico modo per risolvere conflitti e ostilità. Gli esseri umani sono dotati di un'infinità di strumenti con i quali trovare pacifiche alternative allo scontro. Tra questi strumenti non violenti ci sono il dibattito, la preghiera, la contesa legale, il sacrificio rituale, la trattativa e l'accordo, il perdono reciproco, il dialogo che può dissipare l'odio, il duello musicale, la sfida sportiva, la catarsi collettiva, le feste di riconciliazione, i grandi cortei, gli abbracci senza ipocrisia, eccetera. Tutti questi strumenti, carichi di significato, sono spesso in grado di riparare ciò che alcuni si sono impegnati a distruggere. Tra i popoli indigeni amazzonici come i Muru Imuina, gli Okaina, i Muinane, i Bora, gli Andoke e i Nonuya, i modi di risolvere i conflitti sono strettamente legati ai fondamenti della loro cultura. Uno strumento di reciproca intesa e incontro pubblico sono i balli rituali, che vengono organizzati per trasfigurare le forze minacciose, animalesche, in esperienza umana e trasformare ciò che è pericoloso in protezione, l'ostilità in festa. Per gli indigeni, gran parte delle malattie fisiche, emotive o spirituali vengono da fuori, dalla foresta, e sono portate dagli animali. Le malattie possono essere infettive, parassitarie, tossiche e allergiche, ma esistono anche altri malesseri che non hanno una sintomatologia individuale e non sono legate al corpo malato del paziente. Sono i disturbi collettivi che colpiscono l'uomo nel suo ambiente. Sono mali di natura psichica o morale, che si trasformano in rabbia, invidia, irritazione, aggressività e che richiedono di essere trattati anche tramite la terapia rituale, con azioni dirette a mantenere la salute collettiva e a sanare il luogo in cui si vive. La guerra è forse l'esempio più chiaro di malattia che infetta un territorio e la vita sociale. L'arrivo di un gruppo armato è simile a un contagio. È una forza estranea, infestante e pericolosa che attrae gli animali feroci. Per questo motivo, i popoli Muru Imuina, Andoke, Muinane e Nonuya considerano i gruppi armati come gente della foresta, animali della foresta, in abiti mimetici, con un determinato odore, tratti fisici e morali specifici. Senza un maloca né un orto, sono esseri che vagano per la foresta lontani dalla loro famiglia. È un'idea del tutto coerente con la concezione amazzonica del corpo quale strumento di differenziazione, che presuppone la possibilità di trasformazione, di mutamento, di disgregazione esistenziale, per cui ci si perde o si subisce una metamorfosi. Verso la fine del 2002, in pieno conflitto tra le FARC e l'esercito, alcuni gruppi guerriglieri in territorio indigeno hanno chiesto di partecipare alla celebrazione del ballo rituale della frutta, Yuaki Muru Imuina. Il malochero, il signore del ballo, ha accolto la loro richiesta, a una condizione. Possono entrare solo se lasciano fuori le armi. Disarmati, i guerriglieri hanno ballato, bevuto caguana e mangiato casabe. I presenti hanno interpretato l'accaduto come una dimostrazione del potere del ballo di disarmare i guerrieri e di trasformare la ferocia animale in pacifica socialità, la violenza in difesa della vita. La guerra, per così dire, venne curata. Il virus della guerra infetta i nostri modi di vedere, di sentire e di relazionarci con gli altri. La guerra influisce sui modi in cui odiamo e su chi odiamo, governa l'indifferenza, la paura, la pigrizia, l'egoismo. La guerra forgia i modi di vedere il mondo, ci espone al rischio di disumanizzazione e di subire una tragica metamorfosi. Finché esistono i conflitti, c'è il rischio di patire un processo di animalizzazione continuo, che si manifesta in uno spreco e in una mancanza di rispetto per i nostri stessi diritti, per i nostri valori etici e politici. I balli rituali amazzonici ci spronano a preservare i nostri attributi umani ed esorcizzano il pericolo di trasformarci in creature predatrici, aggressive, che incitano all'odio e alla violenza contro gli altri. Ballare e danzare sono modi di narrare la storia. La celebrazione di un ballo permette di rappresentare la storia locale in forma attiva e di creare una prospettiva culturale veritiera riguardo alle tensioni tra guerra e pace. La storia narrata attraverso il ballo non assomiglia al resoconto ufficiale degli stati o a quello dei gruppi armati. È un racconto che espone, attraverso le azioni rituali e i canti, un'interpretazione autonoma della realtà dal punto di vista di chi ha sofferto e vissuto i giochi terribili della guerra. Una danza, in fondo, è un'azione cosciente diretta a riaffermare la nostra condizione di esseri umani. Serve a umanizzare la ferocia.